Il 20 novembre a Taranto si è tenuto un convegno delle città militarizzate, è stato un convegno nazionale organizzato dal Comitato dei Due No, che a Taranto esprime due opposizioni. La prima è l'opposizione al rischio nucleare che si incrementa notevolmente, in quanto a Taranto è prevista la realizzazione di una terza base a comando americano, e che quindi porterebbe a Taranto il comando della sesta flotta USA, che attualmente è a Gaeta. Ricordo che nel frattempo nella zona Napoli e dintorni verrebbe trasferito il comando europeo dell'intera marina militare americana, e quindi noi abbiamo uno spostamento a sud di tutto il baricentro militare della potenza americana, con un ulteriore incremento della militarizzazione. Quindi questo è il primo no che esprime il Comitato dei Due No, no al rischio nucleare. Il secondo no è un no a ogni ulteriore incremento della presenza militare sul territorio tarantino, e ovviamente questo Comitato dei Due No si collega a tutti gli altri comitati che in Italia si battono contro l'aumento della presenza militare e l'aumento del coinvolgimento quindi della nostra nazione nel dispositivo militare che attualmente è impegnato in questa guerra preventiva, in questa azione di espansionismo militare nel mondo, guidata ovviamente dalla Casa Bianca. Quindi il Comitato dei Due No ha promosso questo convegno a Taranto del 20 novembre, che ha assunto un carattere nazionale, in quanto sono intervenuti i comitati di La Maddalena, di Sigonella, di Napoli, di Pisignano vicino Cervia, di Bari, Brindisi, di altre realtà che sono coinvolte nella militarizzazione. E in questo convegno è stato presentato inoltre uno studio del professor Francesco Polcaro, che è uno scienziato del CNR, il quale insieme al professor Zucchetti e a un informatico, Francesco Iannozzelli di Peacelink, hanno realizzato uno studio appunto di 110 pagine che dimostra in maniera scientifica l'intrinseca pericolosità dei sommergibili a propulsione nucleare. In particolare si sottolinea il fatto che questi dispositivi non hanno tutte quelle precauzioni, quelle misure di sicurezza di cui invece sono dotati i reattori nucleari a terra. Va infatti sottolineato più volte, perché è una cosa che non si dice, che i propulsori dei sottomarini nucleari, i propulsori nucleari, sono delle centrali nucleari a tutti gli effetti. Non ne è dotata la Marina Militare Italiana, ma ne è dotata la Marina Americana, a cui non corrisponde neanche un'assicurazione delle città, cioè nel caso in cui ci fosse un disastro nucleare non ci sarebbe nessuno che pagherebbe. Infine si è anche detto che questa rete di realtà militarizzate che lottano per una riconversione dello sviluppo verso il civile si dà nuovamente appuntamento a Pisa, dove l'11 e il 12 di dicembre ci sarà un'iniziativa analoga che coinvolgerà le realtà di Camp Derby, di Aviano e di tutte le altre realtà più a nord. Abbiamo realizzato sul sito di Peacelink un settore appunto in cui un settore tematico su cui far circolare le informazioni e renderle comunicanti. Questa rete quindi si trova su peacelink.it nel settore tematico disarmo. Chiunque si collega troverà le istruzioni per prendere informazioni e darne. Vogliamo arrivare cioè a realizzare una mappa del territorio nazionale dove le varie realtà militarizzate si possano conoscere, si possano congiungere, coordinare e possano lottare insieme per una riconversione verso il civile del loro territorio e della loro economia.